Storiacce di Raffaella Calandra. اللي دفن الراس وصل لنا يعني عن طريق اشخاص كمان وصل لنا النظارات وانه I busti delle statue ora sono lì, in mostra a Roma, decapitati come il corpo di suo padre. E lei, Fayouz, figlia dell'ultimo direttore delle antichità siriane di Palmira, ora desidera solo, a quanto racconta a Radio 24, tornare da archeologa nel suo paese, per continuare l'opera che Khaled el-Assad, suo padre appunto, ha portato avanti fino a che l'ISIS non l'ha giustiziato. I colonnati e i templi di una delle più importanti e grandi città antiche non hanno fatto solo da sfondo a macabre esecuzioni di Daesh, ma hanno rappresentato anche uno dei principali canali di finanziamento del califfato. E non stupisce allora che anche in Italia sia stata sequestrata a casa di un collezionista senza particolari scrupoli, come sentiremo, una statua di chiara origine palmiregna. Solo che noi, al contrario di altri paesi, abbiamo già accordi per restituirla alla Siria, insieme ad altri due busti sfregiati, perché anche così si combatte il terrore. E allora è a Palmira che torniamo in questa nuova puntata di Storiacce. Con le note dell'orchestra del Teatro Marischi di San Pietroburgo, il mondo e la civiltà è tornata a Palmira dopo la liberazione dall'occupazione dell'ISIS ad opera dell'esercito russo. Mesi dopo, il sito è stato in gran parte anche bonificato dalle mine. Questo permette di cominciare a progettare un piano di restauro per le squadre di archeologi che dovranno ricostruire i templi distrutti dagli uomini di Daesh. Ma questo ora sta permettendo di avere anche un quadro più completo della spoliazione dei beni archeologici avvenuti in questo mese. Beni rubati e rivenduti dall'ISIS nel mercato nero per finanziarsi. Reperti spariti del tutto o sfregiati, dal momento che ad esempio le teste delle statue sono più facili da trasportare e rivendere. Statue di epoca romana decapitate, come l'uomo che ha dato la sua vita per difenderle, Khaled el-Assad, l'ultimo direttore delle antichità di Palmira. Così dunque non stupisce come ora la figlia, Fayouz, archeologa proprio come lui, non desideri nient'altro che tornare in quella città, a Palmira, per continuare l'opera del padre. Noi l'abbiamo incontrata a Pestum, alla Borsa del Turismo Archeologico del Mediterraneo. Noi siamo contenti di liberare Palmira di Daesh. Siamo tristi di vedere Palmira senza Khaled Assad, non solo noi come famiglia, tutti i palmireni, per loro Palmira e Khaled Assad. Non sono riusciti purtroppo lei e sua famiglia, che gran parte di loro sono fuori della Siria, due fratelli di lei sono in Siria, però non sono ancora tornati, non per niente, solo perché per loro non è facile tornare a questa città senza loro padre. Questo uno. Secondo, se anche una cosa speciale per noi, seppellire questo padre. Se purtroppo voi sapete è stato decapitato, loro non sanno dov'è il corpo e dov'è la testa. Non sanno dove siano i resti, giusto, di Khaled el-Assad? No, però hanno notizie che si sono seppelliti, la testa in una parte, il corpo è in un'altra parte, però non hanno notizie. Suo padre metteva gli occhiali e allora una persona gli ha portato gli occhiali, dicendo che è stato seppellito in una zona, però non sanno dov'è, loro hanno solo gli occhiali adesso. A loro tutto quel che resta del padre sono gli occhiali? Solo. È stata un'emozione per tutto il mondo. Può provare a raccontarci lei dov'era, come ha vissuto quella giornata in cui si è avuto conferma della liberazione di Palmira? È stata a Berlino quando ha avuto questa notizia. E ha pianto subito, piangeva, e poi aspettava di liberare e tornare con suo padre. Però ho sentito che adesso è morto, quando è liberata, però senza lui. Quando ho sentito la notizia prima del suo padre, era un grande shock. Era difficile di piangere, di cosa si fa così. Era una cosa, un grande shock per loro, la notizia di suo padre. Invece la notizia di liberare la città, piangeva molto, dice, di gioia. è anche lei un'archeologa come suo padre. Palmira rappresenta per tutto il mondo e per gli archeologi un luogo imprescindibile, importante. Volevo sapere se anche lei aveva lavorato come archeologa a Palmira e appunto in questo momento che cosa rappresenti per lei questo progetto che c'è per la ricostruzione delle opere distrutte, quindi il futuro di Palmira. Lavoravo nel Museo Archeologico di Palmira. Lei, il suo compito era di documentare e mettere nel magazzino, anche nelle vetrine, i reperti delle missioni archeologiche a Palmira, sia locale o missioni straniere. È un lavoro molto interessante e lei spera anche di tornare e fare il suo lavoro che a lei piace molto. E da archeologa, ci ha riflettuto sul gesto eroico di suo padre di decidere di restare fino alla fine, quindi fino a che non l'hanno ammazzato, a difesa di Palmira e dei suoi beni archeologici? Spera molto di tornare. Lei è archeologa, però adesso dove sta non sente che lei è archeologa. E lei ama molto il suo lavoro e anche spera di tornare e di tornare a sua città nativa e al suo compito, al suo lavoro, che è la sua personalità di essere archeologa. Palmira ha passato diversi periodi neri nella storia e lei spera anche di questo periodo nero anche di passare e tornare come tornato alla vita diverse volte nella sua storia. Il nome di suo padre è diventato molto noto in tutto il mondo dopo la sua uccisione. In che modo pensa che la morte di suo padre possa aiutare il futuro di Palmira? Dice certo, io cioè per lei è morto due volte. Una volta quando è morto e la seconda volta quando la Palmira liberata però senza lui. E lei è molto emozionata, certo che lei sente anche fiera di suo padre nella vita di suo padre, di quello che ha offerto suo padre a questa città, e fiera anche se suo padre essere calmo nella sua tomba, di attirare l'attenzione e di recuperare, di far tornare Palmira come era una volta. Come lei ben sa, anche attraverso il traffico dei beni culturali, dei beni archeologici, l'ISIS si finanzia. Allo stesso tempo, però, gli archeologi siriani, oltre a suo padre, hanno cercato in ogni modo, anche correndo dei rischi, di salvare delle opere d'arte per cercare di metterle al riparo dalla distruzione e anche da questi traffici neri. Il fatto che anche i beni culturali vengano utilizzati per finanziare l'ISIS, da studiosa e da figlia di Khaled el-Assad, che cosa le fa pensare? Insomma, dice che questa è la cultura dell'ignoranza. Questi reperti rappresentano la storia, la civiltà, la cultura di questo popolo, di questo paese. Però questa gente che sono venuti da fuori, per loro solo un merce che per guadagnare, però loro non sanno proprio la valutazione di questi reperti, per loro solo un merce che costa, però non è un merce che ha una grande importanza storica e culturale. Ci sono tanti sforzi di recuperare questi reperti che sono in mercato nero. Si sta componendo man mano la radiografia del saccheggio dei beni archeologici siriani avvenuta ad opera del Califfato. Man mano che archeologi siriani riescano a visitare zone di guerra riconquistate e man mano che negli altri paesi, vicini e non, si rintraccino opere di chiara provenienza siriana. Molte sono state trovate in Libano, che le sta restituendo, molte invece in altri paesi medio orientali europei che a volte, non allo stesso modo, sono determinati nella restituzione di reperti trafugati per finanziare il Califfato. Daesh infatti da una parte ha fatto man bassa di opere da rivendere, dall'altra ha distrutto templi come quelli di Palmira, per i quali ora per la prima volta è stato messo a punto un piano di restauro, mentre è ancora difficile avere un quadro esatto delle rovine di Aleppo, altra fondamentale città siriana, come ci conferma Faisal Najadi, direttore generale del Ministero del Turismo siriano. Aleppo purtroppo ha avuto tanti danni, il centro storico, la città vecchia ha avuto tanti danni, ci sono alcune zone che non si può arrivare, la situazione fino a questo momento diciamo molto complicata per quanto riguarda Aleppo. Noi tutti speriamo di arrivare in un punto di tranquillità. Lei è tornato a Palmira dopo la liberazione? Pochi giorni dopo la liberazione sono andato a Palmira due volte. A Palmira, la zona archeologica, purtroppo hanno distrutto la cella del Tempio di Baal, tipo il Tempio di Baal Shamin, l'Archeo di Trionfo, le tombe a torre, che sono cose speciali. Un gran parte della città è ancora in piedi, il teatro, il colonnato, le terme, diversi templi sono ancora in piedi, però alcune cose molto speciali, molto particolari, purtroppo sono già distrutti. C'è un piano della direzione dell'antichità siriana, un piano di come si tratta con la città archeologica. Il direttore Abdul Karim. Abdul Karim, in modo di un anno per documentare gli studi per restauro, decidere e restaurare e finanziare tutto. Però tutto questo anche collaborando con, diciamo, con gli enti internazionali dell'archeologia, dell'UNESCO. Questo piano prevede che cosa? Allora, il piano dice che nel 2017, cioè per un anno, sono un anno di studi e ricerche e documentare. 2018 fino al 2020 sono di restaurare l'Arco di Trionfo e la cella del Tempio di Baal. Dopo tre anni, possiamo dire, di finire restaurare questi, diciamo, questi due cose più importanti a Palmira. Tre anni per la ricostruzione del primo dei templi distrutti a Palmira. Potrà essere davvero questa una scadenza? Noi tutti ovviamente ce lo auguriamo, ma nel frattempo le tante ricchezze artistiche siriane finiscono sparse per il mondo, contribuendo a rimpinguare le casse del califfato, che poi colpisce con attentati anche noi. Eppure, anche se tutto questo è sempre più evidente, c'è anche chi, anche in Italia, non si fa scrupoli di acquistare statue chiaramente provenienti da quell'area. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Storiacce. Quando i carabinieri l'hanno vista, hanno intuito subito, poi gli archeologi l'hanno confermato. Proviene chiaramente da Palmira, una statua sequestrata dalle squadre specializzate del Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico, a casa di un collezionista. Un collezionista che non si è fatto molti scrupoli a mettere le mani su un'opera di pregio, anche se è proveniente da un'area dove, anche con questi traffici di reperti archeologici, si acquistano le armi e si formano i combattenti che poi si fanno esplodere a Parigi, come un anno fa, a Bruxelles o ovunque in giro per il mondo. E se l'Italia ora ha già preso accordi per la restituzione a Damasco di questa statua, a lungo il nostro resterà il primo e forse l'unico paese a farlo in Europa, ipotizza Paolo Mattie, che per 50 anni ha guidato con l'Università Sapienza missioni di scavo in Siria, famoso soprattutto per la scoperta di Ebla. È un dovere morale quello di restituire, come dico sempre, al popolo siriano la ricchezza della loro multiculturalità, della loro stratificazione culturale. E sui metodi per le ricostruzioni certamente ci può essere un dibattito, ma soprattutto io credo che sia essenziale che l'iniziativa resti al paese in cui queste opere sono, cioè la Repubblica Araba Siriana, che vi sia un forte coordinamento e controllo dell'UNESCO come garanzia internazionale e soprattutto che non sia un paese solo o due, ma sia un'ampia e solidale collaborazione internazionale che io sono convinto che si riuscirà benissimo a fare perché nella nostra scienza, l'archeologia, la collaborazione è qualcosa di assolutamente abituale. Sappiamo come anche il traffico dei beni archeologici di tutta la Siria abbia contribuito al finanziamento dell'ISIS. In questo momento, dopo la liberazione di Palmira, oltre alle distruzioni ci sono anche stati proprio tutti i saccheggi fatti perché molti di questi reperti hanno preso le strade, diciamo, del traffico illegale. Avete un quadro anche di che tipo di spoliazione è avvenuta? Non c'è dubbio, giornalisti americani sono riusciti a seguire l'esportazione illegittima di opere dalla Siria e non sempre i paesi confinanti sono stati partecipi nelle restituzioni. Io credo che deve essere elogiata assolutamente il Libano, che l'ha fatto più volte, ha bloccato le cose alla frontiera e le ha restituite direttamente a Damasco in maniera assolutamente meritoria. Naturalmente è stato constatato un fortissimo incremento della presenza sui mercati antiquari internazionali di oggetti con provenienza chiaramente o siriana o irachena sostanzialmente. Tra l'altro c'è una testimonianza, diciamo, singola ma impressionante nell'esposizione che c'è attualmente, nella mostra che c'è attualmente a Palazzo Barberini a Roma, di reperti recuperati dal nucleo dei nostri carabinieri, insieme ad opere che per lo più naturalmente vengono dall'Italia. C'è un busto palmireno che non stava naturalmente in Italia e che è stato requisito dal nucleo dei carabinieri a casa di un collezionista che l'aveva evidentemente acquistato in maniera imprevidente e sicuramente illegittima. E di questo abbiamo parlato sia con il presidente Rutelli sia con il ministro Franceschini, e c'è già un pieno accordo perché questo oggetto venga al più presto restituito alla Repubblica Araba Siriana. E credo che con orgoglio che si può dire che l'Italia sarà il primo paese europeo, e probabilmente a lungo il primo paese europeo, a restituire ai legittimi proprietari un oggetto che sia uscito illegittimamente dal paese. Ci raccontavano anche dei busti di statue del museo di Palmira ritrovate decapitate perché le teste... Questa è una delle cose che sono presenti nella mostra che abbiamo curato per iniziativa del presidente Rutelli al Colosseo. Insieme a queste ricostruzioni siamo riusciti a ottenere dalla Direzione Generale delle Antichità di Damasco due busti di Palmira che i siriani che hanno portato in salvo prima dell'occupazione da parte dell'ISIS Daesh di Palmira, circa il 95-98% si dice delle opere che erano lì, ma alcune per dimensioni o per altri motivi anche di massima urgenza. Questi oggetti sono stati trasportati 3 ore prima con un convoglio blindato che entrassero le bande dell'ISIS a Palmira, quindi è stata una cosa francamente eroica. Appunto, abbiamo avuto un accordo con la Direzione Generale delle Antichità di poter esporre due di questi busti che sono sfigurati, ma le parti asportate sono state recuperate dalle autorità siriane e ora sono esposti, diciamo così, sfregiati al Colosseo, ma saranno immediatamente dopo la chiusura della mostra del Colosseo, saranno restaurati a cura del nostro Istituto Centrale del Restauro e poi saranno immediatamente restituiti naturalmente alla Siria. Sul discorso del restauro, della distruzione dei templi di Palmira, in qualche modo l'Italia che tipo di ruolo avrà? È indubbio che la cultura supera i problemi politici in generale. Soltanto che nel presente la situazione è ancora sicuramente estremamente difficile. Per il momento c'è stata soltanto la presenza di esperti polacchi a Palmira, che sono andati immediatamente insieme agli archeologi siriani subito dopo la liberazione, perché i polacchi sono stati tra i maggiori protagonisti in assoluto degli scavi di Palmira per decenni. Io auspico vivissimamente che ci sia un'ampia collaborazione internazionale. In questa ampia collaborazione internazionale è evidente, è sicuro, non avrei alcun dubbio, che l'Italia abbia una posizione importante proprio per l'autorevolezza delle istituzioni che si occupano di restauro e adesso anche per la, in questo la mostra del Colosseo è impressionante, la capacità secondo le tecnologie più recenti. 10 anni fa era impossibile pensare a ricostruire qualche cosa in 3D. Quella di Palmira è una storia assai lunga, intessuta ancor di più di mito. Linea allora, come sempre a questo punto, alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. L'immagine odierna di Palmira, persa, devastata e riconquistata, si trascina dietro una scia di altre immagini che affondano lontano nel tempo. Anno 273 d.C. L'imperatore Aureliano distrugge Palmira dopo aver sconfitto la sua regina Zenobia, che si era ribellata a Roma. Zenobia sarà esibita come preda di guerra nel corteo trionfale per le strade dell'urbe e poi morirà prigioniera a Tivoli. 2000 anni dopo, altre distruzioni, altri saccheggi. Nella follia con cui l'ISIS si è accanita su Palmira, c'era del metodo, forse inconsapevole. Distrutti i templi di Bel e di Baal Shamin, divinità solari simili a Giove, simboli di quel sincretismo, di quel dialogo tra le religioni che caratterizzava un tempo queste terre del Medio Oriente. Distrutto l'arco di trionfo costruito da Settimio Severo, imperatore romano nato in Libia. Gli uomini dell'Isis hanno lasciato invece intatto il teatro, lo hanno usato come scena macabra per i loro sgozzamenti. Ancora una volta il rullo della storia si riavvolge. Anno 53 avanti Cristo, il triumviro Crasso viene sconfitto dai parti sulle rive dell'Eufrate. La sua testa viene tagliata e portata come trofeo al re dei parti, proprio nel momento in cui a corte si mettono in scena le baccanti di Euripide, una tragedia che ha come scena clou proprio l'esibizione di una testa mozzata. Un attore prende in mano la testa di Crasso e la mostra al re, recitando festoso i versi di Euripide. La morte trasformata in teatro, le teste mozzate come macabro spettacolo di propaganda, oggi come 2000 anni fa. Quanti di voi sono stati a Palmira oppure non desiderano ora nient'altro che poter tornare in questa bellissima città siriana? Se vi va, condividete con noi i vostri racconti scrivendoci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!